9 in punto, la versione di Oscar. Buon venerdì 18 marzo, cari ascoltatori. La puntata oggi chiederà un super lavoro e per forza all'inviato del Sole 24 Ore in Giappone, Stefano Carrer, che già sentite ogni edizione del giornale radio, perché insieme a lui ed altri esperti tenteremo di capire meglio due punti, soprattutto come sta evolvendo a una settimana oramai dal sisma di magnitudo 9 che ha colpito le coste nord orientali del Giappone, la situazione nel nucleare. E dall'altra parte, oltre a questo, come il paese sta superando la prova o non sta superando la prova dell'organizzazione dei soccorsi, della ripartenza dopo un colpo di questa portata. Alla fine della trasmissione, gli ultimi 10 minuti li dedichiamo però a una cosa che non c'entra con questo e a cui tengo molto, perché oggi è la seconda giornata europea della narcolessia. È una patologia grave, una malattia neurologica. Bisogna aiutare i medici e i familiari di chi ne è colpito e non lo sa a diagnosticare questo male che almeno 20.000 italiani hanno e non riescono bene a capire che cosa sia, perché ne ignorano la stessa esistenza, eppure la subiscono. Quindi alla fine della trasmissione appuntamento con la giornata della narcolessia, ma ora cominciamo con il Giappone. È ovvio che cosa succederà oggi e domani, probabilmente lo vedrete già nella gerarchia dell'informazione. È inevitabile che l'attenzione torni a spostarsi dopo una settimana per via della risoluzione del Consiglio di Sicurezza che autorizza le no fly zone sulla Libia, di nuovo sulla Libia, perché siamo alla verifica finale lì. Non si capisce perché la comunità internazionale abbia aspettato tanto tempo, se c'erano le condizioni con Cina e Russia per fare la no fly zone, fino al punto tale da riportare Gheddafi a pochi centimetri dalla riconquista di Bengasi e dalla repressione finale del moto. Comunque è ovvio che l'attenzione si sposterà su quello. Nel frattempo sono a 7 giorni dal sisma, sono 2 giorni che noi, la comunità internazionale, l'Agenzia Internazionale Atomica, tutti quelli che seguono da vicino, attaccati alle agenzie, lo sviluppo della situazione giapponese, non si riesce a capire. Non si hanno dati attendibili, non si hanno dati sui rilasci di sostanze radioattive, sulle misurazioni alle diverse distanze dalle centrali. Non si riesce a capire davvero che cosa capiti ai diversi reattori della centrale di Fukushima. Abbiamo letto oramai 36 ore fa che la posizione statunitense, la posizione ufficiale di agenzie ufficiali di sicurezza nucleare americane, è quella che il Giappone, un'accusa molto grave, avrebbe perso praticamente il controllo della situazione già da 2 se non 3 giorni. Saremo in presenza almeno in 2 reattori di piscina del combustibile esausto in cui la situazione è completamente andata fuori controllo. Tra il reattore 3 e il reattore 4 era quello che era, non era in produzione al momento del sisma prima e dello tsunami poi. Almeno in quei 2 reattori siamo in condizioni ipercritiche, con rilasci, dicono gli americani, di gran lunga superiore a quello che dicono i giapponesi, e da 2 giorni però noi non riusciamo a capire com'è davvero la situazione. Ho controllato ulteriormente anche stanotte, di rilasci ufficiali nelle agenzie non ce ne sono. Abbiamo appreso ulteriormente che anche secondo le norme AIEA del 1996, questa centrale, la Mark 1 di una centrale General Electric, che è progettata tra il 62 e 63 e non più modificata dopo il 65, realizzata dal 68 in poi, ci sono decine e decine di centrali di questo tipo. Comunque la AIEA ci fa sapere che con le specifiche di sicurezza IEA 96 non dovrebbero essere in funzione. Domanda: se queste specifiche di sicurezza sono del 96, come fanno queste decine di centrali a essere ancora in funzione? Ecco, questo è tutto un primo filone di domanda che faccio a Stefano Carrer. Poi ce n'è un secondo che riguarda come il Giappone sta reagendo davvero a la tragedia di cui ci occupiamo purtroppo meno rispetto alla paura nucleare, e cioè le decine e decine di migliaia di morti, una parte che è quasi un quarto della capacità produttiva del paese in ginocchio. C'è chi dice, a distanza di 7 giorni, che la probabile efficienza del Giappone in realtà è una probabile efficienza che non convince più. Pochissime colonne di soccorso, a 7 giorni la parte più colpita ancora abbandonata a se stessa, senza cibo e in condizioni di gran lunga inferiori a quelle che ci si aspetterebbe dal Giappone. Ecco, Allora, di questa prima di tutti questi interrogativi parliamone con Stefano Carrer, che io ringrazio per il tempo che ci dà, ed è con noi anche Gianni Silvestrini, che è direttore del Kyoto Club, direttore scientifico del portale Quale Energia. Buongiorno a entrambi, cominciamo con Carrer. Allora, com'è la situazione aggiornata sull'allarme intanto nucleare? Sì, ciao Oscar. Allora, i giapponesi continuano, le autorità giapponesi continuano a farci dei briefing per la stampa estera, però non si, alla fine di questi briefing non si capisce ancora come esattamente sia la situazione, nel senso che ci hanno detto che in questo momento il reattore numero 3 è quello che continua a dare le maggiori preoccupazioni e che la situazione, hanno detto salomonicamente, non sta migliorando ma non sta peggiorando. Ecco, mi sentite? Sì, sentiamo. Ah, ecco, ok. Ecco, la novità importante, direi, proprio di queste ore è che il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che è un giapponese, Yukiya Amano, si è appena incontrato col primo ministro Kan e, sia pure con un linguaggio diplomatico, gli ha fatto presente la sua insoddisfazione per come il governo giapponese sta gestendo questa crisi nucleare. E Kan, dopo l'incontro con Amano, ha promesso di migliorare il monitoraggio delle radiazioni e altri sviluppi riguardanti l'impianto, ma l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica vuole anche fare da sé e quindi tra un paio di giorni manderà una sua squadra, un suo team a Fukushima per monitorare direttamente quello che sono appunto le radiazioni e per rendersi conto in prima persona della situazione. Quindi il governo giapponese, come la TEPCO, il gestore, la utility che gestisce l'impianto, sono sotto accusa per la loro politica di comunicazione e il fatto stesso che l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica appunto voglia mandare un suo team specializzato e abbia richiesto ufficialmente al governo giapponese una maggiore trasparenza fa pensare che nei prossimi giorni ci saranno delle informazioni più precise. Allo stato attuale la zona che è stata per ragioni di sicurezza intorno agli impianti di Fukushima evacuata è sempre quella delle 20 miglia, cioè 30 chilometri, o è stata ampliata? Perché gli americani avevano detto estendetela fino ai 50 chilometri. Ecco, al momento il portavoce del governo ha ancora ribadito che secondo la loro valutazione è sufficiente la misura presa, cioè una zona di evacuazione di 20 km, un'ulteriore misura, un'ulteriore fascia di 10 km di fascia di rispetto per la cui popolazione sono stati emessi tutta una serie di avvertimenti, cioè è stata invitata appunto a prendere le maggiori precauzioni possibili del caso, in particolare stare in casa. Invece gli americani hanno appunto sia il Dipartimento di Stato sia il Pentagono, quindi anche i militari americani, la fascia di sicurezza per loro è di 80 chilometri. Di 50 miglia, sì. Sì, ecco, addirittura il Dipartimento di Stato comunque sta prendendo ulteriori precauzioni e quindi ha deciso di far partire le famiglie dei diplomatici, non solo quelli dell'ambasciata di Tokyo, ma anche quelli di Yokohama e addirittura quelli di Nagoya che sta a 350 km a sud. Quindi in attesa di saperne di più, con la sensazione che il governo giapponese e la TEPCO non la dica tutta, cioè insomma le precauzioni che stanno prendendo soprattutto le rappresentanze diplomatiche straniere, anche rinnovando gli inviti ai loro connazionali ad andare via da Tokyo, è nell'ordine delle cose, insomma. Queste distanze chilometriche, che dette così non si riempiono di contenuti umani, però per capire qual è l'impatto, è un impatto molto diverso, perché nella fascia dei primi 20 km di evacuazione c'erano 77.000 residenti, poi in realtà ne erano rimasti meno per effetto naturalmente della violenza, dell'impatto, del sisma più tsunami. Nella fascia di rispetto, che sono altri 10 km, sono altri 60.000, ma se si estende la fascia a quanto ritengono opportuno le autorità americane e il Pentagono, nelle diverse prefetture che a quel punto vengono interessate, ci sono 1.900.000 residenti. Quindi capite che la differenza, che a me colpisce molto come ordine di grandezza, è una differenza di valutazione, di misura di sicurezza di fronte a quello che non sappiamo della centrale, che riguarda 1.900.000 persone. Ed è io devo dire la verità, mi sono molto esposto nelle polemiche, continuo a pensare che le scelte energetiche vadano fatte razionalmente. Continuo a ricordare a tutti che noi abbiamo un evento gravissimo prima di questo, dal 59, da quando sono in esercizio le centrali atomiche civili di scala 7, cioè Chernobyl, dovuto alla follia umana. Questo è sicuramente l'evento fuori scala che fa parte però della componente di rischio imponderabile collegata all'atomo e che ha conseguenze che non hanno le altre fonti energetiche in termini di sicurezza popolazione, se c'è rilascio di sostanze radioattive e di impatto per migliaia di anni sull'ambiente. La cosa che mi colpisce è che a distanza di una settimana, da una parte non siamo in presenza, a distanza di una settimana è un fatto, di fenomeni come quelli avvenuti a Chernobyl, cioè di immediato cedimento delle strutture di contenimento e di necessità di coprire con il cemento il vessel, cioè il contenitore intorno al nocciolo che aveva ceduto, ma dall'altra parte però la cosa incredibile, lo dico per me, che come vedete non nascondo le mie convinzioni, e trovarci in assenza di dati e rilevazioni certi da una parte proprio in Giappone e con gli americani rispetto ai giapponesi che propongono un ordine di grandezza di misure di sicurezza di una distanza tra 100.000 e poco più persone e 1.900.000. È qualche cosa che sicuramente a uno come me, abituato a dire l'energia si fa anche con le equazioni, ma si fa mica dimenticando gli esseri umani, non riesco veramente a capacitarmi. La domanda a questo punto, Stefano, è anche: ma non è che per caso la singolarità, la straordinarietà del popolo giapponese, lo abbiamo visto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto in questa settimana, le sue straordinarie prove di solidità psicologica, è così nella sua storia sempre, rimettersi in piedi, non piangere, non lamentarsi e così via. Però contemporaneamente molti dicono, dalle aree interessate proprio dal sisma, dicono guardate che qua di una vera e propria grande macchina dei soccorsi pubblica, insomma ci saremmo aspettati molto di più. Tu che impressione hai? Il possibile che proprio il paese che da decenni non fa altro che addestrarsi agli eventi naturali fuori scala, questa volta abbia avuto un colpo superiore alla sua stessa capacità? Cosa sono i 15 anni di stagnazione che lo hanno prostrato? Ma io direi intanto un tratto caratteriale, adesso senza generalizzare troppo, ma comunque i giapponesi non sono mai bravi a gestire nessuna emergenza, non sono mai bravi a gestire qualcosa che va oltre l'ordinario e che diventa imprevisto. Prima di tutto. Secondariamente è vero che sono addestrati ad affrontare i terremoti sia psicologicamente sia perché per esempio ogni anno il primo settembre, che è l'anniversario del terribile grande terremoto del Kanto del 1923 che fece 140.000 morti, fanno delle esercitazioni di protezione civile su scala enorme. Ma il problema è che appunto non sono attrezzati veramente a gestire l'emergenza. Io sono andato subito dopo il terremoto al nord, nella provincia di Miyagi, e in una delle località che sono state completamente distrutte dallo tsunami, che si chiama Kessennuma, e lì mi sono accorto che effettivamente alla fine sono arrivato un giorno e mezzo dopo, due giorni dopo, così, ma la situazione delle persone lì ricoverate nei rifugi così era assolutamente come se fossero abbandonate a se stesse. E poi non è che anche i militari che arrivavano in quel momento, cioè i militari delle forze di autodifesa giapponesi, non è che pensassero minimamente, come dire, a allestire delle cucine da campo per sfornare pasti caldi o così. No, andavano avanti e indietro, avevano degli ordini di occuparsi magari appunto del primo soccorso, ma la gran parte della popolazione rimaneva così con un'assistenza veramente minima. Da una parte questo appunto lascia evidenziare quella che è il senso di dignità di questo popolo che non si lamenta eccetera, però è anche vero che c'è anche un aspetto un po' pericoloso, cioè il fatto stesso di non aspettarsi dalle autorità, almeno in generale, grandi forme di soccorso, sta, gi- gioca contro il fatto che poi i soccorsi ci siano. Esattamente, sì, questa è un po' l'impressione, ripeto, agli ascoltatori giapponesi che vivono in Italia, non abbiano l'impressione che noi stiamo criticando per criticare, facciamo i soliti italiani spacca capelli. Noi non facciamo altro che rilanciare una parte del dibattito che abbiamo colto anche di amici che stanno in Giappone e che ci hanno detto: guardate che si inizia anche qua a ragionare in maniera, certo, nel senso di unità nazionale, che è quello della più grande tragedia dopo la Seconda Guerra Mondiale, dell'imperatore che riappare in televisione al di fuori delle due circostanze ufficiali annuali in cui lo fa, e quindi è una, però insomma, analisi critica c'è anche qua, ci dicono dal Giappone. Noi purtroppo abbiamo tentato di pescare il maggior numero di italiani che erano a Sendai o da quelle parti, ma sono quasi tutti in spostamento per tornare in Italia oggi, non siamo riusciti ad assicurarci il collegamento di nessuno per avere testimonianze dirette di lì. La domanda che faccio a Gianni Silvestrini, ripeto, che è direttore del Kyoto Club, direttore scientifico del portale Quale Energia, molte pubblicazioni scientifiche in questi giorni, lo avete letto e ascoltato, per chi non lo avesse notato, comunque è uno di quelli che giustamente dicono grande pausa di riflessione, quantomeno dopo quello che sta succedendo nel nucleare. Io a Silvestrini però chiedo, al di là di quello che resta sullo sfondo, che è opportuno, necessario, ci si può dividere, molti paesi stanno naturalmente tirando il freno a mano, dalla Germania, gli Stati Uniti, Obama tenta di resistere, anche il governo in Italia in pochi giorni ha dovuto prendere atto che bisognerà ripensare quantomeno molto profondamente il suo piano nucleare. Non c'è nessun presidente di regione, tranne uno, che ho in Abruzzo, che ha una qualche disponibilità a un impianto nucleare. Ma al di là di quello, prima concentriamoci ancora su quello che sta avvenendo, perché a me colpisce che a 7 giorni non riusciamo da 2 giorni a capire quello che sta avvenendo. Secondo lei, Silvestrini, che cosa stiamo imparando dal rilascio di informazioni in tempo reale? Primo. E che cosa c'è da pensare di questa divergenza di valutazioni così profonde tra le autorità giapponesi, che stanno lì alle prese con il problema e alle prese con la propria popolazione, e quello che dicono l'AIEA e gli Stati Uniti dall'altra parte, Silvestrini? Ma in effetti anche me stupisce molto questo atteggiamento e in generale la risposta, come avete sottolineato voi, rispetto al disastro. Cioè, mi aspettavo una risposta molto più pronta con la protezione civile che da noi interviene subito, mentre lì pare che proprio non abbia avuto una reazione del tipo. Per quanto riguarda il nucleare, in realtà c'è una tradizione lunga di decenni di mancata informazione, disinformazione. Il presidente e l'amministratore delegato della TEPCO si sono dimessi perché hanno ammesso di avere mentito su incidenti che sono successi negli anni precedenti, il 2002. Nel 2007 c'è stato un altro grave incidente Kashiwazaki, che è la più grande centrale mondiale, con 8.003 anni è stata ferma, ha perso più di 10 miliardi di euro. Cioè, c'è una zona grigia, confusa per quanto riguarda il nucleare. Nella situazione attuale io credo che a questa si sovrapponga anche il fatto che non sanno proprio che fare, disperatamente le tentano tutte. Però aspetti un secondo, Silvestrini, questo si è capito, perché pur di assicurare in qualche maniera che il raffreddamento, si è visto che le provano tutte, ma la questione che non ci sia un'informazione apprezzabile per giorni, ripeto, su quali strutture hanno ceduto e che rilascio ci sia misurato in maniera che tutti capiscono, questo mi sembra un po' pazzesco, non lo so, io rimango abbastanza senza parole, lo dico io che non sono sospettabile di essere, per così dire. E lei come pensa che, perché sta avvenendo? Non le stanno misurando le radiazioni? Non credo, no? No, le misureranno sicuramente, ci sono dei dati che non vogliono diffondere per non gettare nel panico la situazione. Io ho visto la televisione stanotte riferiti dalla Cina, con i supermercati assaltati dalle persone che sono preoccupate che possa scoppiare il reattore e la reazione arrivare in Cina. Cioè, è una situazione di una mai successa in passato, perché appunto Chernobyl ha avuto una dinamica totalmente diversa, con una potenzialità di radioattività nelle vasche con il plutonio, che nel caso di evento peggiore possono avere un effetto effettivamente catastrofico. Quindi, questo per capirci, per spiegarlo a chi è a caso, questo è il reattore 4, cioè quello che non era in funzione, trascurato nei primi giorni, dicendo tanto non è in funzione, che ha esattamente nelle vasche di combustibile una potenzialità, per così dire, che è centinaia di volte, dal punto di vista di quello che può avvenire nella zona per le popolazioni e circostanze, più letale di quello dei due reattori che sono, come abbiamo visto, con problemi di raffreddamento, ma fin dal primo momento, proprio perché lì c'è una concentrazione di plutonio molto elevata nel reattore 4 che non funzionava. Esattamente. Quindi in sostanza non stanno dando, soprattutto la TEPCO, perché poi anche il primo ministro ha rimproverato la TEPCO di non rilasciare dati, quindi c'è una situazione di confusione incredibile, e in tutto questo chiaramente i cittadini che temono di non avere le risposte giuste, che sentono gli americani, gli australiani, i sudcoreani che dicono 80 chilometri, mentre il loro governo dice 20 e 30 per non uscire di casa, ovviamente getta confusione al cittadino medio, perché non sa a chi credere. Beh, viene da dire poveri giapponesi, però guardate, io non dico poveri giapponesi, dico che questa cosa deve assolutamente interrogare noi tutti, deve interrogare noi tutti. A me non fa cambiare molto idea sui calcoli generali in 60 anni del nucleare, non può che però colpirmi molto profondamente se uno dei paesi più avanzati dal punto di vista tecnologico dell'Occidente adotta procedure che per me sono attualmente incomprensibili. Cioè, è ovvio che bisogna ragionare con la massima sicurezza di fronte a un processo che non è come Chernobyl dopo 7 giorni, sì, ma è evidentemente alle prese con incalcolabili misure di sicurezza che non riescono a venire a capo del problema. In quel caso bisognerebbe espandere il più possibile la zona di rispetto. Perché i giapponesi lo stanno facendo? Capiremo tra qualche giorno che avevano ragione loro e che il mondo intero a avere un allarme di proporzioni ingiustificate? Io non so cosa dare risposta a questa domanda. Mi chiedo se gli americani hanno, come credo, i dati che testimoniano invece rilascio di radioattività molto maggiore, tanto da giustificare le misure che loro chiedono e che non vengono adottate, perché non li rendono pubblici. Il silenzio però uccide tutti, non consente né a chi ragiona come me, né a chi ragiona come Silvestrini, a nessuno di venire a capo di niente. E questa è sicuramente la cosa peggiore, perché consente solo alla paura di moltiplicarsi e non consente a nessuno di ragionare in base a dei fatti. Qualcuno ascoltatore continua a dire vergogna, ti stai zitto. No, io non mi vergogno, perché ripeto, la valutazione del rischio si fa sui dati, e la valutazione del rischio che io ho proposto una settimana fa è una valutazione del rischio fatta con dati alla mano, e ancora adesso il cedimento non c'è, quindi tentiamo di evitarla sta curva sud e curva nord. Poi pensate di me quello che volete. Detto questo, rapidissimi due ascoltatori su questo punto preciso, informazione nucleare. Roberto da Roma, prego Roberto, come la pensa? Roberto, buongiorno Giannino, scusi, non so che carta abbia, ma a me non dispiaccio. No? Grazie. Andiamo al punto, non ci perdiamo. Dunque, io sono un fisico, come diceva la sua collega, sono un fisico, quindi non ho pregiudizi sul nucleare in particolare. Quello che non capisco qui da noi in Italia, a proposito di informazione, è proprio la mancanza di informazione. Anche perché io dal mio punto di vista, come cittadino, se il mio governo non ha un piano energetico, e un giorno la mattina si sveglia e dice facciamo le centrali nucleari, io questo non lo capisco. Io vedrei le centrali nucleari all'interno di un piano energetico con i dati dettagliati di quanto mi costa, quanto è il vantaggio, quali rischi ci sono. Allora, visto che il rischio è alto, perché come stiamo vedendo, come diceva lei prima, l'evento imponderabile nel caso di una centrale nucleare può portare a delle conseguenze drammatiche. Allora, perché io devo accettare questo rischio? Se qualcuno mi dice, guarda, il problema è che con le centrali nucleari ti si azzera il costo dell'energia, ci posso anche pensare, ma se non c'ho questo termine di paragone, Io come faccio a discutere di questa cosa? Roberto, il coefficiente di rischio imponderabile è esattamente quello che divide tutti, nel senso che gli altri costi benefici del nucleare sappiamo calcolarli. Il problema è quanto pesa l'incidenza del cosiddetto rischio imponderabile nella valutazione di questa fonte, visto che le conseguenze possono essere poi molto durature per l'ambiente, molto rischiose per le popolazioni. Quindi proprio questo è il punto. Certo, senza informazione è difficile, perché a quel punto il principio di cautela dice ne facciamo a meno e basta senza informazione, ed è quello che poi temo che prevalga. Dicevo che abbiamo cercato prima fonti dirette, per così dire, di testimonianza di italiani dal Giappone, e adesso siamo collegati con Don Achille Loro Piana, che è a Kawasaki, quindi è nella grande area di Tokyo, ma ha testimonianze dirette dei danni dello tsunami nell'area nord-orientale. Buongiorno e grazie a Don Achille Loro Piana. Buongiorno. Allora, nel suo giudizio, quello che è avvenuto e la risposta che è in atto da parte delle autorità giapponesi, tanto sull'informazione che viene data per la centrale di Fukushima, quanto per l'organizzazione dei soccorsi, l'ha colpita positivamente o negativamente? Per quanto riguarda le informazioni, io seguo le informazioni che vengono dall'Italia. Ho l'impressione che i notiziari italiani siano un po', non dico un po' esagerati, dicono, tendono a calcare un po' le tinte, e invece i notiziari, dico, l'informazione giapponese è un po' contraria, cerca di fermare, di frenare un po'. Bisognerebbe aggiungere le cose e dividere per due, forse si potrebbe così avere una visione oggettiva della situazione. Il fatto che l'emergenza è di proporzioni apocalittiche, ecco, perché tutto il nord, la costa nord orientale dell'Honshu, quasi 500 km di costa, sono stati investiti da questo tsunami, che è lo tsunami che è stato terribile, più che il terremoto, perché i terremoti qui sono all'ordine del giorno, ce n'è stato uno anche 5 minuti fa, ecco. E la risposta è una risposta che soltanto il popolo giapponese può dare e sa dare. Più di 100.000 soldati che stanno lavorando, adesso sono stati raggiunti quasi tutti i centri di accoglienza, sono 2.270, sono circa 200, più di 250.000 persone che sono rifugiate. Quindi lei dice state anche attenti voi da lontano, dall'Italia, a esprimere critiche su come i giapponesi stanno reagendo, perché in realtà la portata dell'evento è tale che è facile criticare, però insomma un po' anche questo è l'elemento, noi critichiamo un po' troppo. Adesso la risposta degli operatori giapponesi è molto positiva, stanno lavorando molto, specialmente per quanto riguarda l'emergenza nucleare. L'ultimo messaggio che è arrivato dall'ambasciata proprio 2 o 3 ore fa dice quanto segue: nei reattori numero 1 e 2 l'acqua di mare viene pompata regolarmente e si spera di mantenere la situazione sotto controllo almeno per quanto riguarda questi due reattori. Un ulteriore elemento positivo è rappresentato dai lavori per il ripristino dell'energia elettrica, che potrebbe sostituire i generatori diesel che forniscono energia, eccetera. Insomma, sembra che la catastrofe nucleare sia evitata, lei dice. Va bene, io ringrazio Don Achille Loro Piana e vedremo, perché allo stato attuale, dopo una settimana, siamo ancora in condizione di non capirla bene. Cioè, abbiamo tecnicamente capito come e perché gli apparati di sicurezza, il primo e il secondo livello di backup, sono saltati. Poi, da alcuni giorni, che cosa stia avvenendo sulle centrali di combustibile, sui depositi di combustibile esausto sulle barre, intorno alle barre e nei vessel di contenimento? Questo io considero abbastanza incomprensibile. Per giorni non avere dati affidabili dei rilasci esterni e della condizione interna all'impianto. Io capisco che i giapponesi non vogliano provocare il terrore, però il problema è che il mondo reagisce da 7 giorni come se fossimo di fronte a Chernobyl, e quindi c'è qualche cosa che sicuramente non funziona. Io credo che il mondo esageri un po', però non capisco più i giapponesi che non danno più i dati, quindi in questo ognuno può pensarla come vuole. E infatti cosa avviene? Vediamo un secondo con Beda Romano Stefano, che è collegato, e lo ringrazio, è corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania. Che cosa avviene, per esempio, un grande paese come la Germania, avviene che Angela Merkel, la cancelliera, blocca, decide di fermare alcuni impianti, i più anziani. Ricordate che la cancelliera e il governo tedesco l'anno scorso avevano deciso la protrazione media degli impianti nucleari tedeschi di 12 anni, in media, dico, perché ci poi sono distinti per anzianità di impianto. E adesso, qualche giorno fa, ha decretato lo stop degli impianti più vecchi e comunque la moratoria sulla decisione complessiva. All'inizio tutti in Europa battono le mani, nel suo paese alcuni si interrogano perché dicono: ma non è che possiamo cambiare idea ogni anno così su cose come il nucleare? E poi naturalmente conta anche lì il calendario elettorale, ma soprattutto in base a cosa si assumono queste decisioni, se ancora non abbiamo capito com'è in Giappone. Beh, da Romano, qual è il clima, la temperatura politica, i fattori interni di questo dibattito su questo punto in Germania? È predominante, direi, è predominante. La signora Merkel ha annunciato, ha capito immediatamente l'impatto di politica interna che avrebbe assunto la crisi giapponese. Il terremoto è stato venerdì, le prime notizie su un possibile incidente atomico nucleare sono arrivate nella notte fra venerdì e sabato. Sabato la signora Merkel ha organizzato in tutta fretta una riunione dei principali ministri del governo per tentare di arginare la reazione della popolazione tedesca. La prima decisione era stata quella di fare dei controlli sulle 17 centrali nucleari del paese, e poi via via c'è stata un'escalation dei provvedimenti fino alla decisione di chiudere per 3 mesi le centrali più vecchie, che sono 7 e che sono state costruite negli anni 70. Il problema naturalmente è che questa vicenda giapponese si sta incrociando con un momento politico tedesco molto delicato. Il cancelliere Merkel da ormai un anno ha perso la maggioranza al Bundesrat, alla Camera delle Regioni, ed è costretta quindi a una politica molto compromissoria con il Partito Socialdemocratico e con i Verdi. Questo mese si vota in 3 regioni, domenica prossima in Sassonia-Anhalt e la domenica successiva in Renania-Palatinato e nel Baden-Württemberg. Il punto è il Baden-Württemberg, è una delle regioni più grosse del paese. Ci sono centrali lì interessati dalla sospensione? Ci sono 4 centrali, di cui 2 interessate alla sospensione, e ci sono 2 aspetti molto importanti in questo land. Prima di tutto è un land governato dalla CDU, quindi dal Partito Democristiano, dal 1953. E in secondo luogo è un land paradossalmente molto ecologista, nonostante sia un land molto industrializzato. Negli anni 70 il movimento verde nacque fondamentalmente nel Baden-Württemberg, perché gli ecologisti protestarono in quel periodo contro la costruzione delle prime centrali nucleari tedesche. E quindi la signora Merkel ha visto molto chiaramente la possibilità di perdere questo land, e perdere questo land per la signora Merkel potrebbe essere molto molto significativo da un punto di vista politico. Silvestrini, la sua impressione è che, di fronte a tutti i fattori, rischio imponderabile, cioè, però decisioni politiche assunte così, mentre noi stessi stiamo facendo una trasmissione sul fatto che non abbiamo dati certi o ragionevolmente affidabili da commentare per valutare la gravità vera di quello che sta capitando su un evento che è evidentemente grave, però quanto grave, di che scala e con che proporzioni, gli elementi per giudicarlo attualmente non ce l'abbiamo. Si fa bene ad assumere decisioni politiche, al di là della elementare cautela, che significa sospendere decisioni finali, prendere tempo per capire, però è giusto sull'impatto energetico decidere così, Silvestrini? Ma guardi, i politici ragionano in termini di sondaggi, in Germania come in Italia. Io però faccio una riflessione più ampia, cioè questo incidente capita in un momento di transizione energetica molto rapida. Io ricordo che la Germania aveva deciso, prima dell'incidente di giapponese, di darsi uno scenario di crescita delle rinnovabili che portava al 50% della copertura della domanda elettrica tedesca nel 2030, cioè tra 20 anni, e almeno l'80% nel 2050, considerando il nucleare quindi come tecnologia di transizione. La Merkel ha detto nei giorni scorsi le rinnovabili dovremo accelerare ancora di più la della transizione alle rinnovabili, e proprio stamattina leggevo che la, esatto, la quota 80% viene anticipata dal rinnovabile. Viene anticipata l'ingresso, la commissione consultiva del governo tedesco stamattina dice si potrebbe uscire, teoricamente si potrebbe uscire dal nucleare nel 2017, non so cosa succederà perché le dinamiche sono diverse e anche grossi interessi economici, ma quello che è certo è che le rinnovabili, che in Germania hanno visto un boom incredibile, ricordiamo che loro hanno 16.000 megawatt di fotovoltaico e 26.000 megawatt di eolico, cioè cifre già molto elevate, ecco che le rinnovabili vedranno un'ulteriore spinta, è un settore tra l'altro economico importante, hanno 340.000 addetti. No, esatto, perché poi loro hanno tecnologie di punta nel fotovoltaico, non come noi che siamo assemblatori più che altro, quindi dobbiamo ancora comprare tecnologie, insomma. Sì, loro hanno fatto una scelta intelligente, hanno puntato sulla tecnologia che pensavano, come il resto anche Obama e i cinesi, che sarebbe diventata centrale nel corso del secolo. Va bene, allora noi continueremo a informare puntualmente, noi che io personalmente non nascondo di avere un bilancio che è positivo e non negativo di oltre 60 anni di nucleare civile per l'apporto energetico. La caratteristica del nucleare, ripeto, è che in questi 60 anni è stata vantaggiosa perché ha la caratteristica di essere intensa e continua nella produzione di energia, a differenza di quelle rinnovabili che sono meno intense, quindi impianti molto più vasti e non sono continue. Detto questo, quando saremo in grado di capire cosa sta avvenendo e con quali conseguenze al Giappone, ve lo diremo. Ora per ora, all'edizione dei giornali radio, continuate a seguirci. Intanto ringrazio anche Beda Romano, Gianni Silvestrini. Ora faccio una scelta di testimonianza per dare una mano da volontario a questa giornata, che è la seconda giornata europea che coinvolge 23 paesi in Europa oltre al Brasile, la seconda giornata europea della narcolessia. Perché vogliamo parlarne? Semplicemente per aiutare coloro che non hanno capito che ne sono interessati, o che hanno qualcuno in famiglia, qualche conoscente, qualche amico che ne è interessato, sentendo anche solo per caso per 4 minuti che ne parliamo, a porsi il problema. Ma non è che per caso si tratta proprio di questo male, di questo disturbo neurologico, che cosa si può e si deve fare? Ecco, con noi il professor Giuseppe Plazzi, che è responsabile al Centro per lo Studio e la Cura dei Disturbi del Sonno, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Bologna. E col professor Giuseppe Plazzi chiedo di dire 3-4 minuti a chi ci ascolta che cos'è la narcolessia, cioè che sintomi possono far pensare a chi è in ascolto per inquadrare il fenomeno, e cosa fare se si hanno dei dubbi, dove andare e che conseguenze può avere soprattutto. Grazie professor Plazzi. Grazie a lei e grazie a voi e grazie per questo spazio, perché il grande problema di una persona che ha una narcolessia è quello di non riconoscere e che questa malattia non venga riconosciuta, ed è una malattia che è caratterizzata, spesso insorge nell'età giovanile, nel bambino spesso, ed è caratterizzata dalla mancanza, dalla perdita di un vero chiaro confine tra la veglia e il sonno, per cui queste persone di giorno hanno episodi di sonno o episodi di veri e propri stati sognanti senza rendersene conto, e di notte hanno un'alterazione drammatica del sonno notturno. Questo ha un impatto enorme sulla qualità della vita, la qualità dell'apprendimento. Però molti potrebbero semplicemente pensare: a me va di dormire di più, di cosa mi stanno parlando? Invece perché è una malattia? Che cosa porta? È una malattia perché ha un impatto sulla qualità della vita catastrofico. L'apprendimento del bambino, a volte i bambini devono sospendere, devono essere ritirati da scuola perché non riescono a seguire le lezioni. A volte le persone sono esposte a gravi rischi di incidenti, sia domestici che sul lavoro, e soprattutto incidenti alla guida, quindi la qualità della vita è veramente drammatica se uno non la conosce, in più è gravata da un numero di false diagnosi o di non diagnosi elevatissimo. La malattia già di per sé è una malattia rara, ma neanche il 10% delle persone affette da narcolessia raggiunge la diagnosi corretta, e in più in Italia, ma in Europa in generale, il tempo medio che un paziente impiega a raggiungere una diagnosi è di circa 8 anni. Un'altra di queste manifestazioni che può aiutare a capire che c'è un problema di questo tipo sono dei immediati, sia pur brevi o poco lunghi, cadute del tono muscolare, per cui improvvisamente tu ti senti eccetera, brum, non dico che caschi per terra, ma caschi per terra a volte. No, esatto, ma caschi veramente per terra. Questo fenomeno si chiama cataplessia ed è un cedimento muscolare del viso, delle ginocchia, le ginocchia ovvero e proprie cadute a terra, scatenate spesso da un'emozione. Quindi un bimbo, per esempio, sta guardando un cartone, ride, scherza con il fratello e improvvisamente cade a terra. E questo porta poi ai bambini a ridere sempre di meno, a cercare di gestire le emozioni per non avere questo fenomeno, che è veramente un fenomeno fastidiosissimo. Uno non sa da dove venga e spesso poi viene deriso per questo. Il problema è che questa è una malattia neurologica, cioè noi non sappiamo ancora bene, allo stato attuale della ricerca, per quale ragione, per quale fattore scatenante interno, esterno, così ci sia un eccesso di difesa dalle cellule dell'organismo che si applica ad alcuni neuroni, per cui le conseguenze sono queste di altro tipo. Di fronte a dubbi, cioè di fronte a crisi di sonnolenza protratte, incapacità di esercitare l'attenzione, confusione dei cicli molto lunghi tra sonno e non sonno durante l'ora del giorno, e queste cadute di tono muscolare, cosa si può fare per levarsi il dubbio? Come si fa? Qual è il punto giusto per andare a farselo diagnosticare? Sì, il punto giusto dove andare a fare una diagnosi è un centro del sonno. Esistono sparsi in tutta Italia. A fronte di una visita, di una prima visita, esistono dei test neurofisiologici, uno studio del sonno sia di giorno che di notte, quindi studio del sonno notturno e studio della sonnolenza diurna, che sono in grado di dire la parola finale su questa diagnosi. Quindi la diagnosi non è difficile, la malattia è conosciuta da oltre 100 anni. E come si cura? Si cura non definitivamente, si tratta con dei farmaci che ne attenuano i sintomi, farmaci stimolanti per rimanere più svegli durante il giorno, alcuni farmaci ipnoinducenti per stabilizzare il sonno notturno e altri farmaci specifici per la cataplessia. Allora, avete sentito il professor Plazzi, guardate che ci sono circa, si calcola, ci sono più di 20.000 italiani tra giovanissimi e meno giovani afflitti da questa patologia. Diamo tutti una mano se avete amici che hanno dubbi di questo tipo. È una cosa che per esempio porta le persone adulte a chiudersi molto in casa, a vivere sui divani per la vergogna di non poter avere più cicli vitali compatibili con qualunque vita sociale o impegni professionali elevati, ma va semplicemente curata con dei farmaci. Allora, di fronte a tutto questo, andate anche a vedervi il portale www.narcolessia.it, c'è Lupo Alberto, ma insomma diamoci una mano. Perdonate, ho dedicato questi minuti a una campagna sociale che secondo me è giusta, come ci sono i problemi per centinaia di migliaia di giapponesi, ci sono anche i problemi di questi 20.000 italiani che hanno bisogno di una mano, e noi dobbiamo dargliela. Appuntamento a lunedì, grazie al professor Plazzi, grazie alla regia Roberto Scaltritti, Alessandro Marco Tulli in redazione e Franco Piantanida, grazie al quale siamo andati ancora oggi in onda. A lunedì. Radio 24. La passione si sente.